Liberi Dentro Eduradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Giovedì 11 marzo, buongiorno e bentornati a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici tra la città e il carcere. Siamo sempre su Liberi Dentro Eduradio, ora in onda su Radio Città Fujiko e alle 10.30 su Teletricolore. Do il buongiorno ai miei ospiti sempre di questa settimana, Ilaria Boni del Poggeschi per il Carcere di Piazza Grande, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. E il nostro Ignazio De Francesco da Montesole, buongiorno a te. Buongiorno, assalamu alaikum a tutte e a tutti. Allora, dovete sapere che Liberi Dentro è anche un programma dove si raccontano delle storie, e le storie del carcere sono quelle anche di quando il lavoro restituisce dignità, ed è questo il titolo di su interris.it a cura di Marta La Placa, dove si racconta di esperienze lavorative di persone detenute. Lei dice, riusciresti mai a dire che la prigione rende liberi? Alcune persone ci riescono, ma non sono né grandi giuristi né grandi studiosi, sono proprio prigionieri che attraverso queste tre esperienze, ve le dico, in Italia, sono riusciti a tutti gli effetti a lavorare anche con contratti di lavoro. C'è questa nella Laguna Veneziana che si chiama Rinascere, l'associazione Rio Terra dei Pensieri, dove ha avviato la produzione di materiali ecosostenibili che siano fatti con materiali riciclati, quindi nel rispetto dell'ambiente, e quindi sostiene anche tantissimi laboratori, fanno piccole sacche, borse, anche con il materiale in PVC. E poi c'è Le Mandorle di Siracusa, che è un laboratorio che si occupa della lavorazione delle mandorle, che è, come sapete, le mandorle di Siracusa è uno dei prodotti tipici e più conosciuti, più importanti. Quindi tutti i prodotti fatti con ingredienti locali, fanno biscotti, salse, prodotti di panetteria e li vendono anche. E poi c'è l'iniziativa Regali di Natale dalla prigione nel carcere di Padova, sostenuto dalla cooperativa Giotto, e infatti anche qui fanno dolci, in particolare panettoni, perché è risaputo che quello di Padova ha una delle pasticcerie migliori del paese. Quindi tutte hanno in comune il fatto, e qui è commovente questa cosa, che i prigionieri coinvolti siano estremamente grati per il lavoro che gli viene offerto, intanto perché gli offre la libertà, almeno mentale, di fare qualcosa di diverso e di uscire dalla prigione. E poi anche per la consapevolezza che il lavoro che gli viene offerto li salva. E ora Ignazio, do la parola a te, perché c'è una questione che riguarda le donne nel mondo arabo-islamico, no? Esatto, siamo nella settimana appunto dell'8 marzo e allora chiediamoci, ma c'è un femminismo islamico? Qual è la condizione della donna? Un argomento dibattuto, non c'è, io ho due minuti, non possiamo affrontarlo qua. C'è un libro bellissimo, lo consiglio, e forse va comprato anche per il carcere, di Renata Pepicelli, Femminismo Islamico, che mostra come c'è un'interrogazione oggi che sta andando molto avanti anche nell'Islam sulla condizione della donna. Per alcune donne musulmane si tratta di liberarsi dal fardello delle tradizioni anche un po' religiose oppure patriarcali, quindi occidentalizzarsi. Per altre invece è diverso, siamo musulmane, portiamo il velo, però vantiamo i nostri diritti e riteniamo che l'Islam abbia migliorato la condizione della donna. Allora, in questo ambito si inserisce una notizia importante che ci viene dall'Arabia Saudita. Arab News è una giornalista che si chiama Lama Al-Hamawi, che parla di un corso molto interessante che è stato avviato online dalla Georgetown University, che è una delle massime università del mondo, insieme con un centro di formazione al Qiyadat Global Program in Arabia Saudita, è dedicato a donne manager. E quindi si fanno dei corsi per insegnare la leadership nel settore economico, nel settore amministrativo, nel settore politico, fatto per donne. Finora hanno avuto 1.300 iscrizioni e finora 200 laureate. Allora, in un mondo in cui eravamo abituati a pensare, ma anche da noi, non è che c'è bisogno di andare lontano, che la donna può fare al massimo la segretaria del capo, ecco, noi troviamo mondo arabo in cui si formano delle donne a avere la, ad essere le cape. Quindi mi sembra molto bello, molto interessante. Allora vorrei dedicare il brano sempre di Amina Annabi, se posso, Caterina. Vai pure, ti do l'autorizzazione. Ma a una persona precisa, che non è questa volta una persona detenuta, ma la mamma di un ragazzo detenuto, che me ne ha parlato recentemente, si chiama Zohra, possiamo dire la mamma, okay. Zohra, che adesso è in Tunisia, e ha una certa età, ed è stata però in gioventù tra le fondatrici della squadra di basket della Tunisia, che si chiama Nusur al Cartage, cioè le Aquile di Cartagine. E questa mamma, ora di una certa età, col suo velo, le sue preghiere, così, da ragazza è stata tra le fondatrici di questa squadra. Quindi le dedichiamo a lei il brano di Amina Annabi, Neila. Eccovi, ben ritrovati sulle note di Neila, di Amina Annabi, la nostra cantante tunisina. Siete sempre su Liberi Dentro e Edu Radio e con te, Ignazio, adesso ritorniamo a bomba sul nostro Galateo Arabo Internazionale, dove nelle giornate scorse abbiamo affrontato come affrontare l'invidia, come riconoscerla, come curarla, e ora io ti chiedo perché l'invidia può avere a che fare, per esempio, con l'elemosina? Perché i nostri sapienti arabi ci dicono che una delle medicine, delle punture da fare, ecco, buone, delle trasfusioni da fare per combattere l'invidia, è quella di considerare la lotta contro l'invidia come una elemosina. E guardate che è molto profondo. Uno dice, va bene, un invidio, ma chi lo sa, sono dei pensieri che uno ha in testa, non guarda più la vicina di casa, non guarda più l'amico più forte, più bello, più fortunato, più ricco. Allora dicono questo, al-iman bi anna l'imsak anishar sadaka, mimma yusaidu alla takhallus min al-hasad. Allora, credere che trattenersi dal male è una elemosina, di ciò che aiuta, è una cosa che aiuta a liberarsi dall'invidia. Quando io reprimo un pensiero di invidia è come se dessi 10 euro a un povero. Uno può dire, ma è un'esagerazione? Chi ci crede a livello spirituale? Perché noi, come con i nostri pensieri cattivi immettiamo del veleno nel corpo della società, così con i sentimenti buoni, misteriosamente, immettiamo un'energia positiva. Grazie Ignazio, sempre per queste parole che ci accompagnano, sempre molto, molto, molto collegate anche a quello che fa Ilaria, per esempio, sempre per Piazza Grande, anche per il Poggeschi, per il carcere. Perché noi ci immaginiamo quando, tra virgolette, come volontari aiutiamo chi ha bisogno. Innanzitutto, secondo me, io aiuto molto me stessa anche quando do una mano a chi ha bisogno, perché a me fa bene spiritualmente anche, lo devo ammettere. E allora volevo chiedere a te, Ilaria, come tu sperimenti la gratitudine nelle associazioni in cui lavori e anche come la vedi sperimentata dagli altri. Sì, è ambivalente, nel senso che la gratitudine è sempre un po'... rischiosa, diciamo, puntare tutto su quello perché appunto rischi di vedere a volte deluse le tue aspettative, ecco. Però è vero che quando fai volontariato, appunto, qualcosa, anzi spesso più di quello che dai ti ritorna. E lo vedo anche da, appunto, da come i nostri volontari, le nostre volontarie aspettano le lettere che i detenuti scrivono loro. Proprio a volte tartassano il nostro volontario che ha le chiavi della cassetta della posta per poter andare a recuperarle, perché proprio, cioè, sanno che è uno strumento molto importante per poter comunicare, non vogliono deludere appunto, le aspettative e la gratitudine che i detenuti ci danno scrivendoci e tenendosi in contatto con noi. E dal punto di vista di Piazza Grande sul lavoro, ancora di più ovviamente questo tipo di gratitudine la sperimentiamo quando vediamo dei percorsi di vita che si, come dire, prendono il volo, no? Riescono a veramente a uscire dalle difficoltà. È molto difficile, però quando succede, non so come dire, è una gioia grande, ecco. E vi dico questo, mi ricordo di un ragazzo, di un signore che abbiamo molto sostenuto nel servizio in cui lavoravo, e lui è riuscito poi a, insomma, a farsi una sua vita, una sua strada. Quando si è sposato ci ha invitato al matrimonio, noi operatrici che l'avevamo, insomma, seguito, e è stato il modo, diciamo, più eclatante con cui poteva manifestare la sua gratitudine nei nostri confronti, no? Cioè coinvolgersi in uno dei giorni più belli della sua vita. E ovviamente è stato molto commovente, abbiamo poi pianto tutto il tempo, ma insomma, ecco, genera una gioia che, insomma, poche altre cose riescono a dare, ecco, nella mia esperienza. Hai detto delle cose molto belle, anche il fatto che per esempio possa essere espressa una gratitudine silenziosa che passa attraverso la gioia, semplicemente un sentimento e non l'aspettativa che per quello che io do e che faccio per forza l'altro mi deve essere grato, sostanzialmente. Questo lo trovo anche sbagliato, sinceramente. Quindi proprio attraverso questa gratitudine silenziosa che dà un senso a chi il volontariato lo fa e a chi è utente di questo volontariato, non solo in carcere ma anche fuori, io dedicherei il brano di Vasco Rossi Un Senso, perché parla del senso della vita. E noi con voi ci rivediamo domani e con i nostri ospiti continuiamo nel proseguo di puntata. Grazie, a dopo. Voglio trovare un senso a questa sera, anche se questa sera un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l'ha. Voglio trovare un senso a questa storia, anche se questa storia un senso non ce l'ha. Bentornati a tutti i nostri ascoltatori su Liberi Dentro, siamo sempre con Marcello Mattè, cappellano della Casa Circondariale Dozza di Bologna. Bentornato, buongiorno. Bentrovati a voi. E con te Marcello, come anche la scorsa domenica dove abbiamo accennato un po' al Vangelo di Giovanni per la terza di Quaresima. Questa volta sempre abbiamo il Vangelo di Giovanni che ci accompagna nella quarta settimana di Quaresima, quindi domenica 14 di marzo. E in questo brano del Vangelo Gesù incontra una persona che si chiama Nicodemo. Allora ti chiedo subito chi è, e poi Nicodemo è dice un dottore. svela delle cose molto importanti anche di se stesso Gesù, ma le vedremo dopo. Sì, Nicodemo è un dottore della legge ed è un componente del Sinedrio, quindi il Tribunale Supremo, diciamo così, della legge. Ed è in particolare un uomo molto considerato, molto apprezzato all'interno del gruppo di scribi e dei dottori della legge. Va da Gesù di notte. Tant'è che si parla anche di una modalità religiosa dei nicodemiti, cioè quelli che si tengono un po' nascosti dal manifestare, di professare la propria fede. Gesù, va da Gesù di notte perché ha un po' timore del gruppo dei suoi pari che non lo critichino, ma lui ha delle domande che se le porta dentro, deve confrontarsi con Gesù, deve per forza avere delle risposte da Gesù. E allora va a incontrarlo di notte e con quest'uomo incontrato di notte, Gesù affronta un discorso che è l'annuncio di una nuova religione, di una nuova Pasqua, di una nuova mentalità, di un uomo nuovo, quello che deve rinascere dall'alto. Certo, e come dicevo all'inizio, prima di interromperti, dicevo che Gesù rivela anche delle realtà su se stesso, perché sempre riconnettendosi poi all'Antico Testamento, dice questa cosa: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che anche il figlio sia innalzato. Quindi fa riferimento poi al mistero dell'incarnazione. Però io chiedo a te un passaggio indietro, allora, che cos'è questo episodio di cui parla Gesù nell'Antico Testamento? È un episodio che coinvolge il popolo in uscita dall'Egitto in viaggio verso la terra promessa che deve attraversare il deserto. E come ogni traversata nel deserto, sia quello reale che quello metaforico, il deserto è pieno di insidie. E queste insidie vengono ricapitolate in questo simbolo del serpente che morde e uccide. È il simbolo di quella. Come dire, insofferenza che ci prende quando attraversiamo il deserto, quando ci sembra di non potersela più fare, quando ci sembra di doverla dare su, ma chi ce lo fa fare di continuare a camminare in questo deserto così arido, quando la terra promessa è ancora così lontana? Quindi la tentazione della quotidianità che diventa pesante e fino ad uccidere. E allora Mosè, per ordine di Yahweh, dice di innalzare un serpente, costruire un serpente di bronzo e innalzarlo, e invitava il popolo, coloro che fossero stati morsi dal serpente, a guardare in alto verso il serpente di bronzo innalzato. Ecco, questa è la guarigione che Dio propone al popolo. Non state con lo sguardo ad alzo zero, non state a guardare in basso, non abbassate lo sguardo, non lasciatevi cadere le braccia, non lasciatevi prendere dalla tentazione della disillusione. No, della frustrazione, non fatevi mordere da queste tentazioni, ma guardate in alto quando vi prende questo senso di frustrazione, di disillusione, alzate lo sguardo, guardate in alto, sappiate guardare al cielo e lì, da lì verrà la salvezza. Quindi Dio si propone come salvezza del suo popolo perché lo aiuta a guardare in alto, a guardare all'orizzonte, a guardare più in là, a saper sperare, a saper continuare a camminare. E allora Il serpente, se... peraltro, sapete che il serpente lo trovate anche nelle icone, nelle insegne delle farmacie. C'è il serpente raffigurato, perché il serpente è quell'animale dal quale si estrae il veleno, un veleno che in dosi massicce può uccidere, ma in minime dose serve per costruire dei farmaci. E così è il simbolo di questa vita nel deserto, che quando ci prende diventa troppo affaticante e può ucciderci, ma in piccole dosi è anche quella che ci mantiene viva, c'è cioè la speranza, l'attesa, il non avere tutto adesso, il non avere tutto subito, è anche ciò che ci mantiene in cammino. E se ti chiedessi un brano musicale legato un po' a questo di cui stiamo parlando? Ma volevo proporvi un brano di Elisa che si intitola Ogni istante. E c'è nel ritornello un'espressione che mi piace, dice: la paura che si sgretola è la strada che si illumina perché adesso sai la verità e questa vita tu vuoi viverla e così sorridere. Ascoltiamola. così scegliere che ci sia luce nel disordine. È un racconto oltre le pagine. Sulle note musicali di Elisa, ogni istante, siamo sempre con te, Marcello, per commentare il passo del Vangelo di Giovanni. Ed è un Vangelo che parla di luce e di tenebre, e anche del fatto che in qualche modo questo Vangelo di Gesù liberante ci lascia sempre anche la libera scelta di scegliere o le tenebre o la luce. E allora io ti chiedo che cosa vuol dire quando Gesù dice chi fa la verità viene alla luce. È un'espressione che forse sulla bocca di Gesù rivolta a Nicodemo che va da lui di notte è anche una specie di battuta che Gesù fa a Nicodemo, no? Lo invita a venire alla luce, a venire allo scoperto, a saper esprimere questa sua fede, a sapere tirare fuori queste domande che si sente dentro, a cercare una risposta. Ma è un tema molto caro all'Evangelista Giovanni, quello della luce. E in questa espressione di Gesù, chi fa la verità viene alla luce, io ci vedo quella gioia, quella sorpresa di chi trova dopo tanto tempo, magari che cercava, qualche cosa sotto la terra che è stato coperto. Si dice, no, di un reperto archeologico che è venuto alla luce. Si dice anche di una creatura, di un uomo, di un bambino, di una bambina che sono venuti alla luce. Venire alla luce vuol dire ritrovare una nuova vita. Ritrovare una nuova vita sotto la sedimentazione magari di anni, di tanto tempo, che hanno costruito sopra una crosta, una corazza che impediva di vedere quella bellezza, quel tesoro che era rimasto nascosto. E penso che sia anche questo un po' lo scopo della nostra Quaresima, far venire alla luce la bellezza dell'immagine di Dio che c'è in noi, far venire alla luce la bellezza che c'è dentro di noi, che forse l'abbiamo per troppo tempo e nascosta sotto la sedimentazione di una religione fatta di tu non vai bene, tu devi essere diverso. Invece scoprire quella verità, che siamo figli di Dio, che Dio ci ama, che siamo belli così come siamo perché così piacciamo a Dio, e trovando questa verità venire alla luce come se nascessimo di nuovo. Marcello, un'ultimissima cosa, riceviamo delle lettere anche dalla Dozza che ci parlano di questa sofferenza molto grande in questo momento di buio, molto maggiore per loro, dove noi un po' banalmente facciamo analogie tra la nostra reclusione in casa per il Covid e la loro situazione che è ancora maggiore. Quindi un consiglio e una parola proprio di cuore da parte tua per questo momento di grande, grande privazione. Io direi in questo momento nel quale, fra l'altro, sono scoraggiati i contatti, no? Sono scoraggiati gli avvicinamenti, dobbiamo stare distanti. Io direi a chi si trova dentro al carcere, che si trova forzatamente magari vicino a qualcun altro, che non può osservare la norma del distanziamento sociale, approfitti di questa occasione di vicinanza per farsi davvero prossimi, più vicini gli uni agli altri. Già che voi dovete farlo per necessità, fate in modo che questa necessità diventi una virtù. Sappiate farvi vicini agli altri, sappiate sostenervi gli uni gli altri, perché in questo momento forse siete più soli che mai, però avete anche più forza che mai. In questo momento la potete trovare. E allora un brano, grazie, un brano lo dedico io a chi ci ascolta adesso tra la città e il carcere, in particolare a queste persone che ci scrivono tante, i Rolling Stones, Shine a Light, perché anche noi possiamo essere luce per gli altri in qualche modo. Grazie, Perfetto. alla prossima. Get a light on you, my sweet honey love. Overdoing, jangling down the street, making the door right. Every woman that you meet, could I say, get a high. Anche la mattinata di oggi con le parole del cappellano del carcere Marcello Mattè, e noi ci ridiamo appuntamento domani alle 9 sulla radio e alle 10.30 su Teletricolore. E vi ricordo che alle ore 17, oggi che è giovedì, abbiamo sempre il Poggeschi con Diritto al Punto e col magistrato Maurizio Millo e i ragazzi. E vi ricordo di iscriverci, l'indirizzo postale è sempre quello, Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40136 Bologna, oppure le vostre mail che stiamo già ricevendo, liberidentro.eduradio@gmail.com. E noi ci rivediamo domani, sempre qui a Liberi Dentro. Buona giornata, ciao a tutti.